Il punto di Stefano Folli. Chi ha vinto ieri sera? Diciamo che ha vinto il Partito Democratico, il partito che ha deciso le primarie e ne va dato atto al suo segretario Bersani. Grazie anche all'ottimo impianto della trasmissione organizzata da Sky, gli italiani hanno visto per la prima volta forse un volto diverso della politica, un modo innovativo di comunicare. Niente di clamoroso o di rivoluzionario, ma per i nostri standard ingessati è stato moltissimo. Altrove è la norma, da noi una primizia. Lasciamo stare il merito del dibattito, chi ha vinto, chi ha perso, ognuno si sarà fatto una propria opinione. Quello che conta stavolta è di aver fatto un passo, un primo passo. Intendiamoci, non è che sia stato colmato il fossato tra politica e cittadini, ci vuole altro, ma la direzione è questa e indietro non si potrà tornare. Ora occorrerebbe che anche il centrodestra, se ne fosse capace, se ci riuscisse, facesse lo stesso.